nastuco a te volo pensiero, niente voglio, niente spero che a tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicura che st'amore non mi so sicure te. Senti in tasti braccia, non te vaso che sta faccia, non te stregno forte in braccia a me. Ma si danno ma sti suona, ma fai chiagnare per te. Sta contenta, io non penso che a te sola, no pensiero me cura.